L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Torniamo a parlare di alimenti in questa puntata. Lo faremo però su due piani diversi. Nella prima parte affrontiamo la questione sprechi sul piano europeo, come abbiamo fatto nel corso di tutta la settimana in Europa 24, con tutte le puntate del viaggio che sono disponibili sul sito internet della radio. Nella seconda parte invece torneremo in Italia per il lancio nei supermercati di Unicoop Firenze e quindi della Toscana dei sacchetti e dei guanti per l'ortofrutta in materiale biodegradabile. Finora, sappiatelo, infatti non lo sono, e quindi questo sarà un bel passo avanti. Ma veniamo agli sprechi. L'abbiamo già detto, al mondo quasi un terzo del cibo prodotto finisce nella spazzatura. Accade nei paesi in via di sviluppo, ma accade anche in Europa, dove ad essere sprecati sono 90 milioni di tonnellate all'anno, scarti agricoli esclusi. Il tema, si capisce, è etico e pratico insieme. Lo spreco di cibo è uno schiaffo alla fame, ma implica anche uno spreco di risorse e un aumento dei rifiuti. Commissione e Parlamento europei stanno affrontando il problema da qualche anno, ma è una questione su cui si può legiferare fino a un certo punto, perché non si può costringere un privato cittadino a non riempirsi il frigorifero di verdure che mai consumerà. Molto del lavoro quindi passerà e sta già passando da campagne informative che la Commissione ha confezionato e messo a disposizione sul proprio sito, molto altro dipenderà dai singoli paesi dell'Unione. Sentiamo su quali fronti si sta muovendo la Commissione con Paola Testori Coggi, direttore generale Salute e Consumatori appunto della Commissione. Per quel che riguarda la produzione, vedo che lavorate sia, state pensando insomma a interventi a livello di packaging, e anche si ritorna sulla annosa questione della consumare preferibilmente entro o no? Cioè... O da consumarsi, sì, o consumarsi entro la data di scadenza, perché questo anche lei lo ricorda bene, noi spesso buttiamo via dei prodotti perché vediamo che sono scaduti, ma la data di scadenza non è sempre una data di scadenza, cioè una data di scadenza su alcuni prodotti che sono quelli che non resistono, come per esempio i latticini, ma invece ci sono altri prodotti, come prendiamo una scatola di biscotti dove c'è scritto da consumarsi preferibilmente entro, ma al di là di questa data il prodotto è sanissimo, soltanto che magari non sarà croccante, è soltanto quando la data di scadenza dice da consumarsi entro il giorno X vuol dire che il prodotto non deve essere consumato, ma se no dobbiamo vedere bene e consumare anche i prodotti al di là di questa data che si chiama preferibilmente. E nel caso appunto uno volesse richiamare l'attenzione su questo, cosa si fa? Si mette sulla scatola una doppia scadenza? È un discorso che si potrebbe forse regolamentare per legge, perché questa è la legge europea che definisce questi due tipi di date, e noi stiamo lavorando con l'autorità per identificare meglio quali sono veramente i prodotti che hanno bisogno di una data di scadenza e quindi focalizzarsi su quelli e invece eliminare molti dei prodotti dove invece non è necessario la data di scadenza, quindi stiamo lavorando per modificare, diciamo, i regolamenti di applicazione di questo problema, di questa cosa della data. E questa era Paola Testori Coggi, direttore generale Salute e Consumatori della Commissione. Come dicevamo, anche il Parlamento europeo è sempre più impegnato sul fronte sprechi alimentari. La Commissione Agricoltura ha tra l'altro recentemente approvato la proposta di risoluzione presentata dall'europarlamentare italiana Cristiana Muscardini, in cui si chiede tra l'altro di dar vita ad un centro europeo di raccolta dati sullo spreco alimentare e di organizzare con gli Stati membri la redistribuzione gratuita a categorie di cittadini al di sotto del reddito minimo degli alimenti ovviamente non avariati. Ma la questione, sottolinea Muscardini, va ben oltre lo spreco domestico. Le derrate alimentari che vanno sprecate sono in continuo aumento. Nonostante la crisi c'è questo aumento dovuto al fatto, per esempio, che alcune campagne commerciali che invitano ad acquistare 3 pagando 2 di fatto portano il rischio che ci siano beni alimentari che non sono utilizzati, ma certo. A prescindere dal, diciamo, non utilizzo domestico di derrate alimentari, il problema delle derrate alimentari è quello molto più vasto della produzione agricola. Noi abbiamo, faccio l'esempio dell'Italia, ogni anno distrutti un'enorme quantità, per esempio, di pomodori piuttosto che di frutta, che non è perché non è commercializzabile per due aspetti. Uno, perché le grandi compagnie di distribuzione impongono dei prezzi talmente bassi che a volte i produttori non trovano neanche vantaggio nel vendere il prodotto, ma lo lasciano addirittura morire sulla pianta o sul terreno. Un altro aspetto è quello del non sapere utilizzare per diciamo le associazioni che racchiudono le persone bisognose tutti questi prodotti. Un altro aspetto ancora è una concorrenza che per esempio c'è nel pomodoro, che arriva da paesi come la Cina, oltretutto pomodori che noi sappiamo come sono effettivamente coltivati. Un altro aspetto ancora, diciamo, preoccupante è la contraffazione, per cui arrivano salse di pomodoro che risulterebbero fatte in Italia ma non sono fatte in Italia, e questa è una truffa largamente utilizzata e che ci preoccupa per il danno che fa alle imprese e ai produttori, per il danno che può fare alla salute dei consumatori, e anche perché a danno di alcuni corrisponde il lucro fortissimo di chi invece è delinque praticando la contraffazione. Ecco, per questo quindi lei ha portato questo tema in Commissione Agricoltura, perché è lì che deve rientrare questa discussione, oltre sull'aspetto del domestico. È in Commissione anche Commercio Internazionale, in quanto dalla Commissione Commercio Internazionale, come dire, ci sono tutte le regole, dovrebbero esserci le regole per contestare l'ingresso di prodotti contraffatti o di prodotti illegali, o per fare accordi con altri paesi che praticano questo tipo di aggressione al mercato. Dunque, quindi questo è lo status quo, insomma, c'è ancora molto da fare. Lei diceva poco fa, probabilmente non ce la facciamo in questa legislatura. Finisce con aprile, poi ci sono le elezioni. Diciamo che il buono di questa legislatura è di avere, come dire, sollevato questo problema con più determinazione che nel passato. L'altro pianeta. Seconda parte della trasmissione, e veniamo, come promesso, al lancio nei supermercati Unicoop Firenze, avvenuto in settimana, dei sacchetti e dei guanti per l'ortofrutta in materiale biodegradabile in Mater B. L'iniziativa interessa i supermercati Coop della Toscana e nasce dalla cooperativa che fu la prima a volere introdurre 5 anni fa anche i sacchetti per la spesa in materiale biodegradabile. Poi divenne legge nazionale per la grande distribuzione, ma questo fu dopo. Cominciamo con il parlare di questa novità con il presidente del consiglio di gestione di Unicoop Firenze, che si chiama Golfredo Biancalani. Guardi, noi utilizziamo ad oggi circa 360 tonnellate di plastica per fare i sacchetti per la frutta e verdura, e poi che corrispondono a circa 120 milioni di pezzi. Quindi questa è un po' diciamo la quantità di materiale che noi dovremmo mettere in gioco con questa iniziativa. Dunque, questo riguarderà tutti i supermercati della Toscana? Sì, Unicoop Firenze agisce in 7 province della Toscana, quindi gradualmente interesserà tutti e 103 nostri punti vendita. La produzione, se ho ben capito, di sacchetti e guanti in Mater B verrà fatta sempre in regione, anche questo è un passaggio, direi, importante da sottolineare. Sì, la produzione è fatta da una cooperativa, tra l'altro, di produzione che ha sede nel comune di Scarperia, nella provincia di Firenze, e questo sicuramente contribuirà anche positivamente allo sviluppo di quella cooperativa, mi faccia dire anche dal punto di vista occupazionale. Ma chi li faceva prima, per curiosità? Non loro, non è che si sono riconvertiti al Mater B, no? No, erano di provenienza da diverse aziende, e alcune fra l'altro erano all'estero, quindi direi che con questa iniziativa facciamo anche un passo in avanti dal punto di vista di riferirsi a un produttore addirittura del territorio toscano, insomma. Un chilometro zero, ecco, del sacchetto. Sì, è un chilometro zero, sì, del sacchetto. così Goffredo Biancalani, presidente del consiglio di gestione di Unicoop Firenze, che in questo progetto farà da apripista ma anche un po' da cavia per le altre coop, così ci ha spiegato almeno Claudio Mazzini, che è responsabile sostenibilità, innovazione e valori di Coop Italia. Il sacchetto dell'ortofrutta, pur non rientrando nella normativa sugli shopper, è comunque considerato uno di quei fattori inquinanti della frazione organica, perché vi è un po' un'abitudine, diciamo, diffusa di buttare scarti di lavorazione della frutta, bucce, dentro il sacchetto dell'ortofrutto per poi utilizzarlo per lo smaltimento dell'organico. Perché somiglia a quelli Mater B, ma non esatto, è. Ma non lo è. E invece usare appunto un sacchetto compostabile potrebbe trasformare un'abitudine negativa in una buona pratica ambientale. E quindi, insomma, in qualche modo l'obiettivo di questo test importante che stiamo facendo è capire appunto se possibile di nuovo provocare un cambiamento culturale, un cambiamento di comportamento che sia virtuoso per l'ambiente. Sono circa 2 anni che ci stiamo studiando sopra, perché ovviamente i sacchetti compostabili e biodegradabili hanno, rispetto alle plastiche tradizionali, alcuni limiti dal punto di vista prestazionale, no? Sono più facilmente perforabili, sono un po' meno resistenti, quindi abbiamo fatto un lungo lavoro insieme ai nostri partner, quindi insieme a IPT e insieme a Novamont, per superare queste problematiche. Dopodiché cominciamo a provare, abbiamo fatto già qualche prova, qualche test, abbiamo visto che funzionava, adesso proviamo in maniera estesa e diffusa per vedere un po' quali sono le reazioni dei cittadini. Resta il tema della sostenibilità non solo ambientale ma anche economica. Di un utilizzo su larga scala di questi prodotti. Quindi, insomma, vi serviranno un po' da cavia, ecco, diciamo, in questo sì, contesto. Sì, assolutamente. Mm. Sì. Diciamo che cavia non è un bel nome, certamente, però saranno. Hanno sempre avuto, i colleghi di Unicoop, da questo punto di vista, una sensibilità superiore e quindi hanno accettato di provare questa sfida. Provarla peraltro nella cooperativa più importante dal punto di vista dei numeri è certamente un test significativo, sia nel bene che nel male, ecco, voglio dire, quando i test si fanno su quelle dimensioni i risultati dopo non sono discutibili, cioè se funziona funziona, così come è stato con gli shopper e poi è diventata la regola per tutti, se non funziona bisogna che ci pensiamo. Perché ovviamente bisogna da un lato verificare se i test fatti dal punto di vista della tenuta sono poi confermati e dall'altra parte vedere il conto economico e vedere questo tipo di impatto cosa significa. Perché costa molto di più fare sacchetti di questo tipo. Costa di più. E il fatto che i guanti vengano dopo è dovuto a un problema economico, un problema di semplicemente... Temporale, sì. Abbiamo lavorato prima sui sacchetti perché i sacchetti hanno più problemi, cioè mentre il guanto non ha un problema di tenuta. No? Non ha un problema di taglio, cioè non ha un problema prestazionale, mi passi il termine, no? Il sacchetto sì, quindi proviamo col manufatto più critico, come dicono gli inglesi, proviamo nel caso peggiore, no? Poi quello buono va sempre bene, quello buono va per differenze, partire con i guanti e non con i sacchetti non aveva senso, al contrario certamente sì, certo, anche perché con un guanto io riempo molto i sacchetti in realtà, per cui l'urgenza era più certamente il sacchetto. Quello sì, però io vedo che i guanti vengono sprecati in un modo incredibile, forse più dei sacchetti. Però i guanti non riescono dal punto vendita. Questo è vero. Quindi cioè, lei deve il tema è, siccome l'obiettivo è capire se riusciamo a fare un qualcosa che sia utile per la raccolta differenziata e a casa del cittadino, il guanto non esce dal punto vendita. E quindi quel tipo di guanto viene poi raccolto insieme all'altra plastica e avviata a riciclo. Quante cose dovete tenere presenti, incredibile ma vero. No, diciamo che l'ambiente è un sistema molto complesso, eh? Non esiste il bianco e il nero, quasi mai. Esistono sempre tantissime tonalità di grigio. La produzione di questi sacchetti per l'ortofrutta in Mater B avverrà quasi a chilometro zero, abbiamo sentito all'inizio, cioè avverrà nello stabilimento della IPT di Scarperia, che è in provincia appunto di Firenze. La bioplastica, ci dice Graziano Chini, che è direttore della IPT, è stato un rischio necessario. La nostra storia è questa, una cooperativa nata giusto 20 anni fa, da sempre Unicoop Firenze ci ha dato l'opportunità di lavorare. Devo dire che se all'inizio non avevamo il lavoro, i volumi di Unicoop sarebbe stata sicuramente molto più difficile, non dico impossibile, ma sicuramente difficile. La IPT quindi non nasce con la bioplastica, ma era preesistente? No. Mm. Noi rilevammo nel 1994 le ceneri di un'azienda che poi andò fallita da lì a qualche mese. e partimmo con la trasformazione dei polimeri tradizionali. Quando è che avete deciso di prendere la via della bioplastica e quindi di passare? Al momento in cui il market leader in questione, Unicoop Firenze, ce l'ha chiesta. Ok, quindi non l'avevate considerato, ma ne avete visto l'opportunità? No, l'avevamo già considerato. Io già dal 2004 iniziai piano piano con delle piccole... dei piccoli lotti produzione, già era nell'aria, però fu un rischio quello di, come dire, di investire, di riconvertire e poi di costruire e fabbricare proprio le linee adatte per questo tipo di lavoro. È un rischio che poi alla lunga insomma ha pagato, no? Sta pagando, anche perché stare su un mercato come quello era difficilissimo, in quanto dovevamo affrontarci quotidianamente con la concorrenza asiatica. Certo. Quindi eravamo arrivati a un punto di difficoltà molto molto molto forti. Che quindi avreste dovuto comunque affrontare, non è che dici se andavate avanti sull'altra via era tutto no, spianato. No. Da lì a poco poi tutto il resto del mercato si è adeguato. Per mercato intendo la grande distribuzione, il mercato della GDO, si è adeguato con l'acquisizione degli shopper dei sacchetti in bioplastica. Una cosa che ricordo appunto quando venne fuori questa necessità che tutti si adeguassero era proprio le difficoltà o comunque le paventate difficoltà di approvvigionamento per chi doveva produrre appunto sacchi in plastica biodegradabile, cioè sì. La materia prima diventa costosa, diventa irreperibile, allora, troppo poca. All'epoca il rapporto commerciale era 1-3. E quindi da parte, diciamo, del cliente, dei clienti, dei grandi distributori, era una cosa molto molto pesante evidentemente. Ora piano piano si sta abbassando, si sta calmierando, anche perché poi è il mercato che fa i prezzi. Evidentemente ci sono più player che possono, diciamo, fornire i biopolimeri. È chiaro che Novamont, noi in quanto licenziatari, Novamont è il produttore di riferimento, però piano piano il mercato si sta stabilizzando. Ecco. Senta, l'ultima cosa, quante persone vengono in più a lavorare per centrare gli obiettivi con COP? Per far fronte a questo tipo, diciamo, di richiesta. Tipo di richiesta, l'anno scorso abbiamo inserito in azienda circa 10 o 11, non mi ricordo bene, addetti, e probabilmente dovremmo inserirne altri due. Ci fermiamo qui, contenti del fatto che in Toscana saranno risparmiate le 360 tonnellate di plastica all'anno utilizzate per fare i sacchetti per la frutta e la verdura vendute sfuse e i guanti che servono per scegliere la verdura e la frutta. Ci auguriamo che questa sia un'esperienza di successo che possa essere replicata. Per dirci la vostra, l'altropianeta@radio24.it. Da Laura Bettini, appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora.